va pur folle, non sai quali occulti pensieri io volga in mente. Ma giunge un ballo in simulati accenti, fia ch'io seco ragioni. Guerrier t'avanza e da tua voglia esponi. Note già l'arti prave e i mezzi industri, onde involasti di Goffredo al campo i più illustri guerrieri. E ben ragion che il mio signor pretenda che ogni ingiusto tuo furto or tu gli renda. Libero è già Rinaldo, io non contrasto che gli ritorni alle latine tende, e il partire o il restar a lui dipende.